Tempo di sport con Carlo Genta. We can confirm Marco Simoncelli has dead today at 4:56. Un pugno in faccia ci ha colpiti questa mattina, un pugno in faccia che arrivava da lontano e che ci ha lasciati attoniti, disperati. Mi piacerebbe lasciare nell'aria i vostri messaggi via SMS, naturalmente 349-238-6666, con la vostra voce 800-24-0024 è il numero verde, oppure con Facebook, oppure con Twitter, su cui si stanno registrando da tutto il mondo frasi o parole di cordoglio più o meno famose. Marco Simoncelli è morto questa mattina, sarebbe probabilmente diventato un grande pilota, era certamente un ragazzo molto simpatico, un ragazzo che aveva la vita negli occhi, un ragazzo che, nel quale rivedevamo in qualche modo, abbiamo tentato di rivedere Valentino Rossi, anche se non sarebbe mai diventato così grande. È morto sul circuito che lo ha incoronato nel 2008, sul circuito su cui ha vinto il mondiale della 250 nel 2008. E alla fine, è un po' crudo dirlo, ma è morto quasi abbracciando quella pista, dopo un incidente terrificante che non lasciava speranze, ed è inutile star lì perché si è solo trattato di aspettare quei minuti penosi in cui, dopo i quali si è dato l'annuncio della dorna che avete sentito. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carla. Ciao Mario, poi entreremo anche nella cronaca del calcio naturalmente, abbiamo fino alle 19 per stare insieme a parlare di queste cose perché questo è anche il nostro mestiere, cioè quello di parlare della cronaca. Intanto Mario, andiamo su quello che è successo questa mattina, stiamo cercando le ragioni perché sarebbe più facile, no? Capire la ragione per cui è successo questo, sarebbe più facile anche se non consolatorio fino in fondo, però sarebbe più facile. Si dà la colpa all'elettronica, si prova a dare la colpa alle gomme o a quel casco che è volato via. Possiamo dire che le corse sono anche queste, se vogliamo essere crudi e un po' cinici. Sì, quello che colpisce di più, io purtroppo nella mia lunga carriera di telecronista di motorismo di situazioni del genere ne ho vissute parecchie. Quello che oggi colpisce per Simoncelli è che era il momento in cui stava definitivamente sbocciando, aveva perso ormai quelle sbavature, quelle esuberanze giovanili, mai con cattiveria tra l'altro come altri piloti in altre occasioni, aveva avuto la conferma che l'anno ventura avrebbe avuto Londra, insomma era diventato un uomo di prima fila proprio in questo momento, quindi colpisce ancora di più questo richiama quanto questo sport del motore sia pericoloso. Comunque la moto in particolare, che è un veicolo che è in equilibrio instabile, cioè se non sta andando cade, ha una serie di problematiche che ancora non sono state risolte, e ne ha parlato oggi anche e altri piloti, diciamo così, cioè il problema come mai la moto è andata verso l'interno della pista quando aveva cominciato a prendere la traiettoria verso l'esterno. E quello è un tipo di incidente che non è rarissimo, basta che a un certo punto ci sia un punto d'appoggio che squilibra la moto, ed ecco che quell'energia centrifuga la porta in fuori, la ributta invece dentro. Quindi è un incidente che, diciamo, al di là della pericolosità oggettiva della motocicletta, va risolto sia con delle protezioni maggiori anche nel mezzo, sia con il controllo di queste potenze che, essendo molto elevate, danno anche una energia residua, anche se mancasse il motore, per cui a quelle velocità è chiaro che l'uscita di pista è praticamente scontata. Solo ne abbiamo viste tantissime anche in questa stagione di cadute, di rotoloni. Noi sappiamo che i motociclisti sono addestratissimi e bravissimi a fare le capriole, hanno delle tute ormai con quella protezione sulla schiena, un casco già molto efficace, quindi sono abbastanza protetti. E certo ci sono dei momenti in cui capita, come in questo caso, che vai a attraversare la traiettoria di uno che sta arrivando, e purtroppo l'impatto ha una forza tale che raramente, ricordo un Cini, ma pochi sono riusciti a salvarsi o a non avere lesioni comunque gravissime e permanenti. Certo. Un conto è cadere dal sole, un conto purtroppo andarsi a trovare a metà pista mentre arrivano due moto. Certo. Dunque, io direi, Mario Poltrone naturalmente rimane collegato con noi e continueremo a parlare nel corso di queste due ore e mezza di quanto è successo stamattina, però per la cronaca, che come dicevo prima è il nostro mestiere, chiedo a Giovanni Capuano di darci gli aggiornamenti sui parziali in Serie A, solo i risultati per il momento, poi parliamo delle partite. Giovanni, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Allora, i parziali quando mancano circa 10 minuti alla fine: Cagliari-Napoli 0-0, Inter-Chievo 1-0, Parma-Atalanta 1-2, Roma in vantaggio 1-0 con il Palermo, 2-0 per il Siena sul Cesena, 3-0 per l'Udinese sul Novara. In una partita bizzarra all'ora di pranzo, il Milan ha vinto 4-3 dopo che era sotto 3-0 alla fine del primo tempo a Lecce. Questi gli spunti ancora parziali di questa domenica. Mario, inevitabile che quanto è successo stamattina ci abbia lasciato sotto shock. Io ero bambino quando tu raccontavi, ricordo, il rogo di Niki Lauda, la morte di Ronnie Peterson a Monza. Sono cose che lasciano una traccia. Impossibile però, come dicevo prima, non sottolineare il fatto che è un esercizio pericoloso, che c'è una pericolosità insita nelle corse motoristiche. Poi, come dicevi tu, vai a cercare ragioni nell'elettronica o nelle gomme o nel casco o nella carena o nelle protezioni o nella sicurezza dei circuiti, però è un rischio che si deve accettare e che i piloti sono i primi ad accettare questo tipo di rischio. Beh, sai, innanzitutto perché chi fa un'attività pericolosa la fa comunque convinto di essere abbastanza bravo per superare anche momenti difficili. Infatti un pilota che ha un incidente, la prima cosa che cerca di capire è perché è successo, perché solo se sa la ragione di questo incidente la corsa dopo andrà forte come prima. Se gli rimane il dubbio di aver fatto qualche errore e non riesce a capire che cos'è, è chiaro che quello è un pilota perso in un certo senso. Ora, anche perché umanamente uno pensa sempre che succeda all'altro, ma ecco, se no non farebbe questa professione. Però rimane il fatto che, ampliando il discorso, il problema della sicurezza rimane, perché proprio la settimana scorsa nelle moto, ti dirò che tra l'altro nel 2003 era morto a Suzuka degli Hirokato, sì, ed era stato un punto di svolta per il motociclismo, perché avevano detto che bisogna assolutamente rendere le corse più sicure, e da lì sono venute fuori le protezioni e il miglioramento in alcuni casi delle piste e così via. Nelle automobili questo tra l'altro non succede, perché la pericolosità è maggiore, ma certo, la protezione è maggiore nella moto, certo, ma la protezione dell'auto a volte non è sufficiente, tant'è vero che la settimana scorsa è morto quel pilota a Las Vegas per il solito incidente della ruota anteriore che si attacca alla ruota posteriore di chi precede. Questa cosa era stata già risolta con una banda di plastica dall'Università di Gottinga sulla Ferrari di Pininfarina nel 69. Siamo arrivati all'82 e Villeneuve è morto per quel tipo di incidente, e qui in questo caso Indianapolis, Las Vegas, diciamo Formula Indy, più o meno lo stesso, tant'è vero che se hai visto la gazzetta di 4 giorni fa, sì, c'era subito il disegno dell'ingegner Dallara, che è quello che fornisce queste vetture Indy in America, dove ha messo due protezioni alle ruote posteriori. Sì. Quindi diciamo che la ricerca della sicurezza deve continuare. Nella Formula 1 è stato fatto, perché con l'appoggio quello che sono le quattro ruote si può anche ragionare e c'è uno spazio attorno che si può gestire. Nella motociclista questo non esiste. Certo. Quindi, Mario, è la necessità, e purtroppo è il pilota che cerca nei limiti del possibile di cadere senza farsi male, ma qui parliamo di un investimento, purtroppo. No, sicuramente. E quanto, come ti dico, alla variazione di traiettoria non è inutile andare a cercare, succede altre volte. Mi pare che già nelle cineteche abbiano trovato altri incidenti in cui la moto si è evitata. Anche a me è successo di uscire in strada in una curva a sinistra andando a sbattere all'interno. Quindi diciamo che purtroppo quando le forze in gioco sono molte e c'è un punto di riferimento che viene a mancare, ecco che le forze contrastanti entrano in gioco e scombinano, così sì, si può dire, la traiettoria, e ti portano verso l'interno. La sua sfortuna è stata quella di trovarsi in un pacchetto di partenza, quindi con tutti i piloti molto vicini. Chiaro. Perché se gli fosse successo al settimo o l'ottavo giro, probabilmente il gruppo sarebbe stato più sgranato, ma sì. Comunque non aveva questo rischio. No, certamente. Mario, ti ringrazio, alla prossima. A te. E sarà un'occasione, speriamo, un po' diversa, insomma, rispetto a questa. Io vorrei continuare a parlare con voi dell'argomento, anche perché ho ricevuto già diversi messaggi come questo di Alessio da Lodi. Ho sempre visto negli occhi di Marco la passione della migliore Italia, la voglia di farcela sdrammatizzando e dissacrando. Impariamo, scrive Alessio. C'è un altro messaggio molto interessante. Sono addolorato per il povero Marco, ma vorrei che qualcuno consolasse Valentino per il peso che forse sentirà per quella maledetta gomma, scrive Silvia. E questo è un altro punto. Io stamattina nel corso di molte dirette ho detto: non vorrei trovarmi nel casco di Valentino Rossi, perché credo che in quel casco, senza alcunissima colpa sua, non può esserci colpa in quello che è successo stamattina. Però non vorrei trovarmi nel casco di Valentino Rossi, perché io credo che quel casco sarà abitato dai peggiori fantasmi. Non sarei sorpreso se Valentino Rossi decidesse di non infilarselo mai più. Traffico, poi vi raccontiamo, proveremo un po' a raccontarvi questa giornata di calcio molto interessante, con l'Inter che sta rimontando, il Milan che sta provando a rincorrere, un Udinese che in questo momento è capolista da sola del campionato, ma le partite non sono ancora chiuse. Caro Paolo da Roma, le sciocchezze le scrive lei con un cinismo che rasenta la volgarità, scrivendo: ma cosa ci vuol far credere questa gente crepi in un contesto dove il rischio reale di morire è nel conto dello spettacolo? È quello che dicevo, cioè i piloti sono persone, sono ragazzi che accettano il rischio. Questo non vuol dire che si possa essere scossi, e questo non vuol dire che si debba liquidare anche emotivamente quello che è successo alzando le spalle dicendo fa parte del gioco. Questo no, e questo non lo accetto, caro Paolo da Roma. 349-238-6666. Vorrei invece andare da Giovanni Capuano per farci raccontare un po' più nel dettaglio cosa sta succedendo sui campi in questo finale delle partite di Serie A, dopo che, e vi do anche questa notizia di cronaca, il Manchester City ha distrutto nel derby il Manchester United 6-1 a Old Trafford, con doppietti iniziali di Balotelli, gol bellissimi tra l'altro, uno in apertura e l'altro all'inizio della ripresa, e poi 4 gol nel finale in rapida successione, e dunque penso sia una delle peggiori umiliazioni mai subite dal Manchester United in casa sua. Gol di Agüero, doppietta di Dzeko, gol di Silva, per la cronaca. Giovanni. Eccomi Carlo, siamo proprio alle battute finali, un po' più indietro la partita tra Cagliari e Napoli, ma per il resto siamo molto vicini al 90esimo, e sta succedendo che le due grandi convalescenti che erano attese a conferme, cioè Inter e Roma, stanno vincendo per 1-0, due partite fin qui fotocopia, nel senso di due partite tutto sommato abbastanza controllate, nelle quali hanno creato anche tantissime occasioni, ma che in questo finale si stanno un po' complicando, perché ad esempio il Palermo è andato vicinissimo, si è mangiato un gol fatto, è andato vicinissimo al pareggio con Ilicic proprio qualche minuto fa, e anche a San Siro l'Inter, che sta sprecando tantissimo sotto porta, ha rischiato non poco a cavallo del 40esimo, con un paio di occasioni consecutive nell'arco di 30 secondi di Moscardelli, che hanno fatto venire i capelli bianchi a Giulio Cesar. Per il resto da segnalare che sostanzialmente chiusa la partita dell'Udinese, che è avanti 3-0 sul Novara con doppietta di Di Natale e gol di Domizzi, Di Natale che è in questo momento il capocannoniere della Serie A, di fatto chiusa Siena Cesena che è sul 2-0, Gonzales e Calaiò un gol per tempo, c'è il Parma che sta tentando il ribaltone con l'Atalanta, era sotto 2-0, doppietta di Maxi Morales, ha segnato Valdés, e qualche istante fa il Parma ha avuto da recriminare, non ha torto, per una trattenuta di Lucchini su Lucarelli all'interno dell'area di rigore, una trattenuta certamente da calcio di rigore non sanzionato. Sta soffrendo il Napoli a Cagliari, era del resto previsto, Napoli che però è anche più volte andato vicino al gol del vantaggio, da ricordare che i sardi hanno preso due traverse con Thiago Ribera in Angolan, un palo l'ha preso anche il Napoli con Santana, siamo agli sgoccioli ovunque. E la Roma ha scoperto subito dopo 8 minuti di gioco, tra l'altro primo gol del pomeriggio, la mela. Sì, questo è l'anno dei debuttanti, l'impatto di Lamela assomiglia molto ad esempio a quello di Maxi Morales nella prima di campionato giocata nell'Atalanta. Lamela dopo 8 minuti ha messo il pallone in rete, si tratta in realtà di una disattenzione della difesa del Palermo, che è salita, l'ha lasciato in posizione regolare e poi si è dimenticata anche di andare a chiudere consentendogli di caricare il sinistro sul secondo palo, però certamente è un buon impatto quello dell'argentino che rientrava oggi dopo aver saltato tutta la prima parte della stagione a causa di un infortunio, è l'investimento tecnico ed economico più importante della nuova Roma e certamente alla prima prova non ha fallito. Benissimo, Giovanni, rimani collegato con noi, ci darai eventuali aggiornamenti ai finali di queste partite. 800 24 00 24 è il numero verde per far sentire la vostra voce. Luca da Torino, buonasera. Sì, buonasera, sono molto veloce e distrutto dentro perché io, diciamo, ho vissuto parecchi anni in Romagna e da piccolo mi ricordavo della tragedia di Pasolini. Sì. E purtroppo un altro pilota romagnolo, ma non so cosa dire, posso dire solo che questa domenica è una domenica bestiale. E un abbraccio a Marco. E Marco, sei sempre qui con noi, non so cosa dire, mi dispiace. La ringrazio per il tempo, la ringrazio a lei, per Luca. Grazie, a lei. Buonasera. Grazie a lei, Luca da Torino. 800 24 00 24 numero verde. Stanno finendo delle partite di Serie A. 2-3 partite sono già finite. Quali? Parma-Atalanta, quindi con la vittoria dell'Atalanta 2-1 a Parma. Atalanta che senza la penalizzazione sarebbe seconda in classifica, quota 14. Poi c'è la vittoria della Roma contro il Palermo per 1-0 e il 3-0 dell'Udinese sul Novara. Udinese che è prima in classifica da solo a quota 15, lo resterà anche questa sera perché la Lazio dovesse vincere a Bologna potrebbe al massimo salire a quota 14. Dunque è ufficiale, l'Udinese è la prima della classe. La Juventus invece ha rallentato in maniera preoccupante, secondo me questo potrebbe anche essere uno dei temi di cui discutere, anzi sarà certamente uno dei temi di cui discutere, oltre al curioso, fatemi dire, trattamento di Del Piero ieri sera, lasciato dopo una settimana come questa, che conoscete ormai molto bene. Del Piero è stato fatto scaldare da Conte per lungo tempo e alla fine gli sono stati concessi, guardate un po', i minuti di recupero. A me è sembrato un po' uno schiaffo, permettetemelo, al capitano dopo una settimana di questo tipo. Ti serve, lo metti, cerchi di... lo vuoi coinvolgere nella partita oppure lo lasci seduto dov'è? Metterlo nei minuti di recupero come l'ultimo dei ragazzini dell'attacco mi è sembrato in questa settimana, torno a ripeterlo, vagamente offensivo. 800 24 00 24 è il numero verde. Si continua a giocare a Cagliari, ma è un Napoli che non... secondo me, Giovanni, fa un affare a portare a casa questo 0-0. Sì, è un Napoli che ha rischiato durante questa partita, ma del resto a Cagliari è difficile non soffrire contro una squadra che fa sempre in casa almeno partite di grande ritmo. È finita in questo momento 0-0. Io però ti segnalo una piccola statistica che può essere un motivo secondo me interessante di riflessione, cioè noi abbiamo iniziato questa stagione convinti che il Napoli sarebbe stata la squadra che tra le grandi avrebbe maggiormente pagato l'impegno di Champions. Con oggi, nelle domeniche in uscita da turni di Champions, il Napoli ha fatto 7 punti, è la migliore delle tre italiane, ma addirittura come il Napoli in Europa sono riusciti a fare solo Barcellona e Manchester City. Tutti gli altri, compreso il Real, il Borussia Dortmund, il Chelsea e tante altre, hanno fatto peggio. Questo secondo me significa che in un campionato che sta andando piano potrebbe anche essere che il Napoli abbia un organico in grado di garantirgli una tenuta sufficiente nel doppio impegno. Sì, questa è una statistica molto interessante, dici bene, anche perché io continuo ad essere convinto che in una stagione in cui tutte stanno andando lente, la Juventus secondo me l'abbiamo un pochino tutti sopravvalutata in questo avvio di stagione, ma stiamo cominciando a vedere dei limiti significativi, in cui il Milan è partito con un grande handicap, in cui l'Inter, nonostante la vittoria di oggi, è ancora laggiù in fondo. Ebbene, io continuo a pensare che il Napoli possa essere competitivo fino in fondo. Ringrazio Giovanni Capuano per questi aggiornamenti, naturalmente ci risentiamo subito dopo il giornale radio, abbiamo 2 ore per parlare insieme. 800 24 00 24 è il numero verde cui chiamare. Io saluto anche, l'ho fatto prima, Giorgio De Luca in redazione, Maria Bernardi in regia, Jessica Centralino per questa puntata di A Tempo di Sport. 800 24 00 24 numero verde. Io ricapitolo i risultati di questa domenica maledetta, peraltro, per i motivi che conoscete, di cui stavamo parlando e di cui torneremo a parlare. Dunque, i risultati dai campi di calcio sono questi: 0-0 tra Cagliari e Napoli, con due traverse del Cagliari, un palo pieno colpito dal Napoli, è comunque un risultato che può andar bene anche agli uomini di Mazzarri. L'Inter torna, vince ancora, riesce a mettere in fila qualche vittoria e a prendere qualche aspirina. Gol di Thiago Motta, un Inter non brillante per la verità, al 34esimo del primo tempo, colpo di testa su corner di Sneijder dalla destra. Pochi istanti prima era stato molto bravo Sorrentino nel respingere una conclusione dello stesso Sneijder. Inter che è andata più volte vicino al raddoppio, che però ha sofferto anche la pericolosità del Chievo in contropiede. Partita pazzesca quella di Lecce, anticipo delle 12.30, 4-3 per il Milan in rimonta dopo che il Milan era sotto 3-0. All'intervallo gol di Giacomazzi, Oddo su rigore e Grossmüller a testimoniare la condizione ancora precaria della squadra di Allegri, al di là di tutto. Nella ripresa, cioè questa tripletta, queste tre sassate di Boateng al quarto, al decimo e al diciottesimo, e poi nel finale il gol di testa di Yepes al 38esimo, che ha dato tre punti fondamentali, secondo me, alla rincorsa del Milan. L'Atalanta va a vincere a Parma 2-1 con doppietta di Maxi Morales, decimo e tredicesimo del secondo tempo. Jaime Valdés, l'ex, riesce ad accorciare le distanze al 35esimo e poi c'è qualche protesta emiliana nel finale per trattenute in area. La Roma batte 1-0 il Palermo con gol dopo 7 minuti del debuttante Lamela. Difesa del Palermo piazzata malissimo, ma bel colpo quello di Lamela, defilato sulla destra, diagonale ad incrociare sul palo più lontano. Colpo di classe quello di questo ragazzino, che appunto oggi si presentava al pubblico di Roma. Il Siena batte 2-0 il Cesena con gol di Gonzalez e Calaiò. E l'Udinese supera il Novara 3-0, gol di Di Natale e Domizzi, piuttosto fortunosi al 33esimo e 39esimo del primo tempo, e di Di Natale invece questo molto bello su punizione al quarto della ripresa. Udinese capoclasse, tra poco vi leggo la classifica, vi faccio sentire subito Ranieri e poi ci sono già gli ascoltatori. Per cui era importante vincere e battere un Chievo che ha messo in difficoltà altre squadre. Sapevamo che si sarebbe difeso molto bene, che non sarebbe stata una partita difficile, e invece devo essere contento, perché noi appunto avevamo giocato martedì e fino all'ultimo abbiamo corso, abbiamo tenuto bene contro una squadra appunto che ha un buon collettivo e corre tanto, e questo al di là di Chievo è così, noi sappiamo che quando si gioca contro il Chievo questo è, squadra compatta, riparte, buoni giocatori, per cui sono soddisfatto. È logico che volevamo chiudere la partita, dopo il gol la squadra si è espressa anche meglio, però adesso che è finita 1-0 va bene, c'è la sofferenza, però ci sono i tre punti. Questo è Ranieri che dunque alla vittoria di Lille in Champions League aggiunge questa sul Chievo. Ricordo che c'è il turno infrasettimanale e sabato prossimo c'è Inter-Juventus, per la cronaca. Guglielmo da Roma, poi Domenico da Pesaro e Giampaolo da Asti. 800240024. Guglielmo, buonasera. Buonasera, salve. Dica. Sì, sono d'accordo con lei in merito a questa maledetta domenica. Sono sportivo anch'io, mi piace andare in moto, sono ducatista e pertanto il massimo e il più profondo orgoglio alla famiglia Simoncelli, ma soprattutto e anche al cuore di quei due piloti, americano e italiano, che non faccio nomi, che si sono trovati davanti la situazione. Io ho davanti a me, passeggio a Villa Panfili con mio figlio che ha 4 mesi, e un domani io mi chiedo, no, se mio figlio vorrà andare in moto, cosa gli dirò? Certo che per la sua libertà e la sua felicità non certo gli saprò dire di no. Allora a questo punto io dico solo una cosa, da sportivo bisogna vedere un po' le cause, i soldi non sono tutti, le cause di queste manifestazioni. Quindi io le cause, insomma, mi appello a tutto, alle organizzazioni, a come. No, ma è chiaro, vogliamo, però dobbiamo accettare, come dicevo prima, un rischio che è parte del gioco e che i piloti sono i primi ad accogliere, a portare in moto o in macchina con loro. Quindi in questo caso possiamo andare a cercare le cause, perché magari ci farebbe stare un po' meglio sapere che, ma un po' meglio in maniera molto relativa, però potrebbe essere vagamente consolatorio conoscere una causa, cioè vedere il grumo nero che è stata la causa della morte di Simoncelli. In realtà si è concretizzato questo rischio che i piloti portano con loro in moto o in macchina. Sono molto triste per la morte di Marco Simoncelli e quanto ha dichiarato, sto leggendo un'agenzia, il presidente della Ferrari Luca di Montezemolo, Mi aveva molto impressionato per la velocità, il talento e la grinta che aveva dimostrato quest'anno. Per queste qualità mi ricordava Gilles Villeneuve, ma il destino ha voluto accumularli in una maniera così tragica. Questo dice Montezemolo. Altro ascoltatore, Giampaolo da Asti, anzi prima Domenico da Pesaro, perché rispettiamo l'ordine di prenotazione come ristorante. 800 24 00 24, numero verde. Domenico, dica. Dunque, a parte che volevo dire qualcosa anche su Simoncelli, sì. Perché io sono di Pesaro, conosco molto bene sia Valentino Rossi che il padre, insomma un po' l'ambiente lo conosco. È stato un grande ragazzo, un grande pilota, un ragazzo scanzonato, non meritava una fine così. È stato molto sfortunato, perché un incidente come questo non capiterà tanto spesso e volentieri. Però io direi di ritornare un po' a non speculare sopra, anche per voi televisioni eccetera, ripeterlo, ribadirlo, rifarlo vedere, rifare... per chi segue le moto, per chi piace questo sport, è un po' mettere a girare il coltellino sempre lì. Basta, cazzo, adesso lo sappiamo, è stata una cosa tragica, siamo tutti sconvolti. Rispettiamo questa vita, rispettiamo questo ragazzo, finisce lì. Io direi di chiudere lì così, con ma per me, guardi, facciamola finita. Domenico, per me volentieri, se poi gli ascoltatori vogliono parlare di questo, io faccio sentire la loro voce, ma non mi sembra ci sia nulla di cannibalesco in questo. Noi abbiamo raccontato quello che è successo, abbiamo fatto la cronaca. Parlarne è un po' un modo per esorcizzare il dolore, non certo per raccogliere proseliti. Questa è la mia sensazione. Quindi, se vogliamo farci compagnia tutti insieme parlando di questo e ricordando quello che è stato, come ha fatto lei, Marco Simoncelli, io sono qui apposta. Se vogliamo fare altri discorsi, è il mio mestiere. Giampaolo D'Asti, buonasera. Buonasera dottor Genta, e un ciao all'amico Carlo Radiofonico che mi tiene compagnia la domenica. Ciao. D'accordo? Ciao. Senti Carlo, io ho telefonato, premetto, non sono un motociclista, non ho neanche la patente, quindi non mi intendo proprio né di due né di quattro ruote. Però questa mattina casualmente mi è capitato di seguire la telecronaca, e quando ho sentito una voce di loro, del circuito, dire del circuito dei piloti, intendo della dire, Dorna, è una caduta strana. Si è bloccato qualcosa, e quando uno di loro dice una caduta strana, perché penso che questi ragazzi sappiano anche in un certo modo cadere nel momento proprio, diciamo così, in cui la moto non va più, non perdi il controllo, anche loro sanno più o meno come evitare qualcosa. Quando lui ha detto caduta strana, lì forse era già tutto scritto, era già tutto segnato. E io, collegandomi a quello che dicevi prima con l'altro ascoltatore, ho telefonato semplicemente perché ho dentro questa emozione enorme. Ma certo. Che non riesco a misurare, a spiegare, a ponderare, e sapendo che ci siete voi. No, ma guarda Giampaolo, non si tratta di fare una messa, però in un momento, insomma, parliamo di calcio, di sciocchezze, lo facciamo oggi, lo faremo sempre, parliamo di sport, che non è una sciocchezza per niente, e lo facciamo con allegria, perché lo sport è questo. Questa non vuole essere una messa, però se è un'occasione, visto che la radio, questo programma è un happening, un incontro con tutti voi e tra tutti voi, se può essere un modo per spiegare un'emozione o per farci compagnia tutti insieme o per in questo modo dire quasi una preghiera pagana per Marco Simoncelli, beh, lo facciamo volentieri. Non ci vedo niente di blasfemo, di cannibalesco, di irrispettoso in tutto questo. Detto questo, se insomma, ovviamente microfoni aperti per qualunque tipo di argomento, perché come sempre sullo sport e con lo sport ci facciamo compagnia. Sta parlando, tra poco andiamo a San Siro, ma sta parlando Ficcadenti, allenatore del Cagliari, che ha una classifica meravigliosa alle spalle di Udinese 15 e Juventus 13, troviamo proprio il rosso-blu con 12, sentiamolo. Assolutamente. Non prendete peraltro gol? Sì, non prendono gol da 4 turni, da 4 giornate. Ecco, dov'è che, a questo punto le domando, dov'è che è migliorabile il Cagliari? Forse in attacco c'è qualcosa da rivedere o no? Ma oggi abbiamo dimostrato di creare tante occasioni, abbiamo preso due pali, abbiamo creato adesso qui la prima parte, è chiaro che È stata i primi 15 minuti difficili perché il Napoli si è fatto subito avanti e abbiamo sofferto. Poi, ma non è una questione di attacco, oggi abbiamo fatto una grande partita, ripeto, sotto tutti i punti di vista, contro una squadra che è veramente forte a livello individuale, hanno tanti giocatori e ti possono mettere in difficoltà perché non ti danno punti di riferimento, invece noi siamo stati sempre corti e quindi in questo momento devo dire che va bene così. Ilaria. Questo è Ficcadenti, classifica Udinese 15, dicevo Juventus 13, Cagliari 12, con 11 punti troviamo un gruppone con Napoli, Lazio, Roma e Milan, a quota 10 le siciliane, Palermo e Catania, quindi con 9 punti Fiorentina, Siena, Chievo, Genoa, Parma. 8 punti all'Atalanta con la penalizzazione di 6, 8 più 6 fa 14 e collocatela voi. Inter 7, Novara 5, Bologna Lecce 4, Cesena 2 punti. Questa è la classifica. Dario Ricci da San Siro, buonasera. Sì, buonasera Carlo da San Siro. San Siro nerazzurra in festa per questo 1-0 sul Chievo. Decide il colpo di testa di Thiago Motta al 33esimo del primo tempo sul calcio d'angolo di Schneider. Una San Siro nerazzurra che, come tutto lo sport italiano, prima del fischio d'inizio ha ricordato Marco Simoncelli con un minuto di silenzio e anche molti striscioni che si vedeva scritti proprio dalla voglia di testimoniare la vicinanza a questo grande lutto per il nostro sport. Andando invece sulla cronaca, una partita che l'Inter ha avuto sempre sotto controllo, tranne forse nella parte iniziale ha giocato a ritmi molto blandi, poi il gol di Thiago Motta, diverse buone occasioni per il raddoppio, due in particolare al 36esimo del primo tempo, Pazzini lanciato proprio da Schneider che sbaglia clamorosamente un pallonetto davanti a Sorrentino e poi nel finale Castagnos entrato proprio al posto di Pazzini che a tu per tu con Sorrentino si fa nuovamente ipnotizzare dal portiere del Chievo. Il Chievo ha fatto veramente poco, solo al 38esimo del secondo tempo l'azione più nitida con un sinistro a girare di Moscardelli entrato per un opaco Paloschi, in quel caso bravo Julio Cesar a deviare sopra la traversa. Commentiamo la sfida di San Siro con il nostro ospite Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Andrea, beh, tanta Inter ma veramente poco, pochissimo Chievo, tanto che in fase di commento è quasi difficile tirare le somme di questa partita. Sì, buonasera a tutti. Molta Inter a livello individuale, abbiamo visto delle buone prestazioni individuali di Maicon, di Schneider, su tutti, meno a livello di gioco e di collettivo, perché insomma è ancora una squadra che fatica a giocare in velocità e sugli spazi, aspettano molto il pallone sui piedi e quindi fanno fatica a sviluppare azioni di gioco. Il disegno dell'Inter è quello di dare palla a Maicon, a Schneider e che inventino qualcosa. Oggi è riuscito in parte, soprattutto nella seconda metà del primo tempo, ed è bastato contro un Chievo abbastanza impalpabile, che ha tirato fuori la cattiveria giusta forse soltanto negli ultimi 10 minuti, quando magari era troppo tardi. Ecco, dicevi appunto Maicon e Schneider sugli scudi, due giocatori ritrovati, soprattutto il brasiliano oggi molto molto propositivo anche in fase offensiva, tra l'altro ha colpito una traversa nel secondo tempo proprio al 29esimo e sulla ribattuta Cambiasso ha mancato il 2-0. Sì, Maicon forse ancora migliore di Schneider che ha avuto un buon primo tempo poi calato alla distanza. Maicon gioca bene quando non ha un avversario diretto che lo punta e che lo mette in difficoltà difensivamente. Oggi praticamente ha potuto fare l'ala perché il Chievo non lo ha mai impensierito dalla sua parte e in questi casi Maicon è sempre un valore aggiunto. Alla fine all'Inter è mancato il gol del 2-0 che l'ha tenuta un po' in ansia negli ultimi minuti, ma non ha mai avuto particolari problemi. Tra le prestazioni individuali segnava anche quella di Chivu, che è molto meglio del Samuel attuale nel ruolo di difensore centrale. Ecco, l'Inter che hai visto questo pomeriggio, Andrea, può rientrare nella corsa ai giochi che contano? La classifica rimane tutto sommato abbastanza corta. Sì, la classifica è corta, però è lunga, anche nel senso che l'Inter comunque ancora sto vedendo 14 squadre davanti, anzi 15. Non sono tanto i punti che la separano dal primo posto, che sono 8 e non sono tantissimi, ma 8 punti e 15 squadre da superare prima di arrivare al primo, quindi io credo che a lungo l'Inter quest'anno pagherà questo suo pessimo inizio e non so se riuscirà davvero a rientrare per i primissimi posti, perché ripeto, ha tante squadre davanti ancora. Eh sì, anche perché poi quest'anno arrivare quarti vuol dire rimanere fuori dalla Champions, ed essere terzi vuol dire entrare giusto nei preliminari. Io ringrazio Carlo, se non ci sono altre domande. Andrea Sorrentino, Dario, se è possibile, volevo chiedere ad Andrea Sorrentino una, ecco, una te lo passo subito, tra l'altro, così sì, così lo saluto anche. Ciao Andrea. Eccoci qua, buonasera. Io volevo chiederti soltanto una valutazione sulla Juventus, perché ho l'impressione, dopo le ultime due partite, che l'abbiamo un po' tutti sopravvalutata dopo la vittoria su questo strano Milan di inizio stagione, e sì, sul trattamento che prima ho definito vagamente offensivo di Conte a Del Piero dopo questa settimana molto, molto complessa, molto difficile, molto tesa, sentita ed emotiva, insomma. Sì, io credo che la Juve, cioè, i giudizi sulla Juve, soprattutto quelli di inizio stagione, sono sempre un po' drogati dal fatto che tutti in qualche modo, anche a livello mediatico, si aspettano una Juve migliore o comunque vicina a quella di un tempo, e quindi si cerca di spingerla, perché comunque ha un grande seguito alla tifoseria più numerosa d'Italia, quindi si cerca di darle molta fiducia. Credo che abbia ancora dei grossi problemi, soprattutto in difesa, la Juventus, sì, benché si tratti della difesa della nazionale italiana, ma anche sulla nazionale italiana, secondo me, ci sono dei giudizi un po' troppo entusiastici. Quindi ecco, è una squadra che deve crescere e che crescerà, secondo me, perché Conte è un bravo allenatore. Al tempo stesso sta dimostrando anche di essere un allenatore aziendalista, e il trattamento di cui parlavi te, che ha riservato a Del Piero, forse rientra in una logica aziendalista, però non è detto che essere aziendalisti sia per forza un difetto, forse vedremo magari. Però sai, logica aziendalista, se Del Piero ha fatto qualcosa a qualcuno magari noi non lo sappiamo, sembra abbastanza strano, curioso questo improvviso... girare le spalle, magari non è improvviso, e magari non sappiamo tutto, insomma, magari non sappiamo tutto, ma non sappiamo mai tutto, purtroppo, delle cose che accadono dentro le squadre di calcio. Questo lo dico per esperienza, magari scopriamo certe cose soltanto a giochi fatti. Di sicuro siamo in un periodo di recessione economica a tutti i livelli, ma anche nel calcio italiano, e Del Piero ha un contratto che pesa, e questo è un fattore che evidentemente la società di cui evidentemente la società tiene molto conto. Grazie Andrea, buon lavoro. A voi. Grazie ad Andrea Sorrentino e a Dario Ricci, naturalmente, il nostro inviato a San Siro. Sta parlando Mazzarri? Sta parlando? Andiamo a sentire attraverso i microfoni di schermo. Lavezzi, la palla per Fernandez. Stanno facendo rivedere gli highlights della partita. Pazzesco il palo colpito da Santana, però è anche vero che nel conto dei legni vince il Cagliari 2-1. Mi informa Giorgio De Luca della redazione che Davide Brivio, uomo molto vicino a Valentino Rossi, su Twitter ha scritto: tanti chiedete come sta Vale, glielo faremo scrivere a lui se ne avrà voglia più tardi, ve lo potete comunque immaginare. Silvano da Venezia, buonasera. Buonasera dottor Genta. Non vorrei realmente sembrare cinico dicendo che i piloti sanno perfettamente quello che rischiano, a cui vanno incontro, però ultimamente ci eravamo un po' tutti illusi che la sicurezza sui circuiti, sulle piste, le attrezzature tenessero lontano questi brutti momenti, e stamattina questo schiaffo ci ha riportati purtroppo alla realtà. Silvano, io credo però che c'è, insomma, non voglio sembrare cinico più di lei, però possiamo avere tutta la sicurezza del mondo, c'è una componente di rischio che fa parte del gioco. Assolutamente. E io che ogni tanto torna in gioco. Certo. Io ammiro molto comunque tutti questi ragazzi che hanno una forza di volontà, un impegno e veramente una determinazione che vorrei che tanti giovani avessero. Poi, ripeto, questo fa parte delle corse, delle gare, e ahimè, quando oggi ho visto quel casco che rotolava, mi è tornato in mente quello che diceva Montezemolo, mi è tornato in mente quel bruttissimo incidente di Villeneuve. Sì. Ahimè, i piloti lo sanno benissimo, perché Stoner è stato il primo a dire: quando c'è un casco per terra non c'è quasi mai nulla da fare, insomma. In questi momenti uno dice: basta, non guardo più le corse, perché è una grossa mancanza, un ragazzo simpaticissimo, un bravo pilota e tutto, però purtroppo la passione è tanta per tutti, e tutto riprenderà sperando che queste cose non accadano, e mi sento molto vicino a tutti gli amici di Marco Simoncelli, alla sua famiglia, insomma, certo, a tutti quelli che gli hanno voluto bene, a tutti noi che abbiamo voluto bene quel simpaticissimo, a tutti noi, ragazzo. A tutti noi, ed è, mi sembra un bel modo, no? Al di là di quanto potranno pensare alcuni, di ricordarlo, quello di farlo attraverso le nostre parole. Gianfranco da Firenze, tanto sta parlando Mazzari, ve lo faccio sentire. Un momento la fa... sfortunato nell'ultima scelta, perché magari andava sul portiere, fosse andato sul portiere, il portiere un tiro così ravvicinato, magari parla di andava episodi. Sul portiere, faceva gol, si diceva grande partita di Cavani. In questo momento le scelte, si è staccato perché magari pensava che Maggio la mettesse dentro, così è successo anche col Bayer, se avete visto, il portiere è sfuggito di mano, lui è andato oltre. È un momento che da questo punto di vista non trova il gol come l'anno scorso, lo trovava con più facilità e basta. Poi è chiaro, un po' di lucidità giocando tanto, ma non solo lui, abbiamo visto anche altri giocatori che perdono lucidità, soprattutto quelli che vanno in nazionale di continuo anche quando ci sono le soste, quindi questo è un problema che sappiamo e di sicuro qualcosa perdiamo. Questo Mazzarri, Gianfranco da Firenze, buonasera, poi andiamo in pausa. Dica. Buonasera, sì, io mi unisco al coro di condoglianze, eccetera. Volevo parlare, sì, di calcio. Prego. Per quanto riguarda la Juve, nel senso che si parla di Del Piero, però non si parla di un aspetto tecnico, secondo me, importante, che ha a che fare con Quagliarella. Sì. Volevo sapere il suo punto di vista, se ha delle notizie, come mai non è ancora entrato praticamente negli schemi, nel gioco di Conte. Evidentemente non è ancora pronto. Personale o se invece è proprio un problema tecnico? Questo non lo so, non credo sia una questione personale, credo però sia questione di pieno recupero agonistico dopo un infortunio molto grave. Ma di Del Piero lei cosa pensa? Della vicenda Del Piero lei cosa pensa? Ma sì, la vecchia Juve non l'avrebbe fatta la figura che ha fatto Andrea Agnelli, avrebbe fatto parlare secondo me il capitano e... magari promettendogli qualcosa a livello dirigenziale. Sì, detto che insomma, secondo me è giusto, più che fare promesse per il futuro, dire di comune accordo chiudiamo questo rapporto, questa storia bellissima. Il fatto che sia stato unilaterale questa rescissione mi ha fatto mi ha fatto un po' pensare, e mi ha fatto ancor più pensare il silenzio di Del Piero nei giorni successivi. Come sapete, ha parlato attraverso i microfoni di Striscia la Notizia, dicendo soltanto: beh, il presidente mi ha ricordato con anticipo la data di scadenza del mio contratto. Una dichiarazione molto intelligente, ma anche molto sibillina, quella di Del Piero, secondo me. Per l'appunto, una storia così lunga e così importante si chiude mettendosi in due davanti a un microfono e facendo dichiarazioni all'unisono. Se non accade questo, vuol dire che qualcosa di diverso è successo. Io vi sms 349 238 6666, tanto per ricordare Vittoria da Milano che vorrebbe Del Piero a fare il dirigente in nazionale, o Luca da Riccione che scrive: non pensa che il Milan soffra molto la Coppa, due sconfitte, Napoli e Juve, un tempo da incubo, oggi guarda caso dopo tre impegni dopo la Coppa. Ma ci ricordava prima Giovanni Capuano come è un male comune anche alle grandi d'Europa, e ci ricordava anche in maniera molto interessante come il Napoli sia una delle squadre che nel turno successivo alla Coppa raccoglie di più, e questo è senz'altro un buon segnale per Mazzarri. Certo, il Milan soffre, ma è anche una squadra che ha dei problemi, e la partita di oggi lo dimostra chiaramente, perché non vai sotto 3-0 all'intervallo con pur su un campo che al Milan non dice mai benissimo, soprattutto negli ultimi anni, come quello di Lecce. Vorrei parlare un po' della Roma, anche perché vedo che ai microfoni di Sky c'è Walter Sabatini. Anche a Roma è stata una settimana particolare, con la conferenza stampa di Baldini, con il chiarimento su Totti, con quelle parole: Totti non deve lasciarsi usare, deve pensare solo a fare il calciatore. Qualche volta l'ho usato anch'io, l'ho invitato a metterci la faccia quando si trattava di ricapitalizzare nell'era Sensi. Sentiamo cosa dice Sabatini. Sono subito ritrovati, lavorando e riproponendo il calcio che vogliamo portare avanti. Siamo stati anche, direi, un po' fortunati, me l'avete ricordato adesso facendomi rivedere alcune immagini della partita. Ma senza fortuna non si vince mai. L'aveva rimossi Sabatini? Sì, l'avevo cancellati già scendendo dalla tribuna, invece voi me l'avete riproposti subito. Ben bene, dobbiamo riflettere sulle nostre cose. Sì, Ilaria, tra l'altro stiamo vedendo le immagini, la regia sta giustamente celebrando con le immagini questo bel gol di Lamela. Insomma, Sabatini è famoso perché scopre soprattutto in Sud America dei talenti emergenti. Oggi abbiamo le prime impressioni, per carità, non esageriamo, le prime impressioni però di vedere di aver visto all'opera un giocatore di ottimo talento. È soddisfatto? È soprattutto un suo colpo Lamela, direttore? No, è un colpo della Roma ovviamente, perché io opero nella Roma e faccio le scelte per questa società, ma la cosa che invece rilevo con più soddisfazione, chiaramente il gesto di Lamela è stato splendido, ma è riuscito un pressing ultra offensivo, che è uno degli obiettivi che intende perseguire l'allenatore. È riuscito e ci ha premiato, no? E abbiamo trovato il gol così. Dopo palla recuperata sulla tre quarti, difesa del Palermo messa malissimo, Lamela si è trovato la palla in posizione peraltro molto difficile, ha pennellato questo sinistro con grande classe, devo dire, classe tutta da scoprire, da verificare. Tra poco torno agli ascoltatori, 800 24 00 24 numero verde, ma resto a Roma da Guglielmo Timpano. Ciao Guglielmo. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Voto a Lamela, tanto che siamo in argomento. Voto Lamela non può essere che 7, è il minimo che si possa dare per aver acceso la stella del suo talento all'Olimpico dopo 7 minuti di partita, mi sembra un voto equo. E alla Roma invece, alla Roma di oggi? Che non ha preso gol, e questa mi sembra una notizia. Il Palermo è una squadra molto fragile, soprattutto in trasferta, però la Roma che sta ancora studiando oggi non ha preso gol, e questa mi sembra una notazione interessante. Il classico risultato che non ti aspetti, almeno non ti aspetteresti, dalla Roma di Luis Enrique. 1-0 significa, tra l'altro con il gol dopo appena 7 minuti, lo dicevamo prima, significa andare praticamente subito in vantaggio e tenere poi il risultato. In realtà, da un'analisi della partita, tante occasioni da gol per la Roma che avrebbe potuto raddoppiare e tante occasioni per il Palermo. Io credo che la Roma sia stata molto simile alla Roma vista contro la Lazio. Non c'è stato l'episodio che ha penalizzato, danneggiato la Roma. Non c'è stato l'episodio, l'errore del singolo come ha fatto Kier in occasione del derby che ha cambiato la partita. A quel gol segnato al derby più o meno negli stessi minuti di gioco nel corso del primo tempo è stato seguito il gol di Lamela e la Roma senza colpo ferire è riuscita ad arrivare a fine partita con un pizzico di fortuna in più, perché Palermo non ha avuto meno occasioni da gol di quante ne abbia avute la Lazio al derby, anzi probabilmente ha costruito anche qualcosina in più. Poteva finire 3-0, poteva anche finire in pareggio, perché il Palermo è stato veramente, veramente bravo, nonostante l'esclusione di Niko Ilicic dall'11 titolare, che ha lasciato molti stupiti qui in tribuna stampa. Sì. Grazie Guglielmo, io ringrazio Guglielmo Timpano da Roma. Chiaro che i giallorossi uscivano dallo shock del derby perso in quel modo domenica scorsa. È chiaro anche che la Lazio è altra cosa, altra solidità, altra esperienza, anche altra qualità soprattutto offensiva rispetto al Palermo. Daniele da Verona, poi Sergio da Bari, torno ai miei amici ascoltatori, 800 24 00 24, e ha ragione chi scrive che via sms che il Napoli i punti li perde la domenica che precede l'impegno di Coppa, comunque il turno che precede l'impegno di Coppa, vedi Chievo e Parma. Daniele, buonasera. Pronto, ciao Carlo, ciao. Innanzitutto farti complimenti per la trasmissione. Grazie. E poi volevo condividere una riflessione con tutti su Marco Simoncelli, oltre a esprimere il dolore condivisibile. Posso chiederti quanti anni hai? 24. 24, sei molto giovane. Dimmi. Sì, e se secondo voi come cambierà la stagione di Valentino e di Edwards dal livello sportivo e mentale anche. Sì, questa, io più che di stagione, stagione è finita, io che di stagione più che di stagione parlerei di carriera, ma poi abbiamo in scaletta un ospite che sarà in grado più di me di darci delle, essendo stato anche pilota oltre che commentatore televisivo, avrà la possibilità di darci una lettura più chiara di questo. Io non, torno a ripetere, non sarei sorpreso se Valentino Rossi decidesse di piantarla lì, vi dico la verità. I problemi che ha avuto quest'anno li conosciamo bene, si è aggiunta questa tragedia pazzesca e non sarei così sorpreso se Valentino Rossi decidesse di far scendere il sipario sulla sua carriera. Sergio da Bari, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Complimenti buonasera. Per la trasmissione. Grazie. Innanzitutto. Io volevo condividere con voi il mio pensiero su Simoncelli, questa tragedia con la quale mi sono svegliato come tantissimi questa mattina. Non sono né un appassionato di motociclismo né vado in moto, però penso che abbia colpito in modo trasversale tutti gli italiani, specialmente per l'età, insomma, del povero Marco. E quello che però mi ha colpito non è più che altro la tragedia vista dal punto di vista sportivo, ma ho avuto la stessa sensazione che vivo quando sento che uno dei nostri giovani ragazzi è morto, per esempio, all'estero in qualche missione. Cioè la tragedia non è il motociclismo, comunque la caduta, ma è il fatto che questo ragazzo avesse 23 anni, come tanti ne muoiono chissà quanti ogni giorno in tutta Italia, sia per motociclismo che per le moto, incidenti di varia natura. Ed è una cosa tragica, però vorrei ricordare anche che qualche anno fa c'era qualcuno che si preoccupava del proprio figlio che andava in moto. Ci fu un atleta, penso georgiano, che morì sul bob, volando dal Sergio, bob. In certi sport, non solo motoristici, c'è una componente di pericolo e di rischio che, torno a ripetere, chi li pratica accetta. Insomma, non è successo nel ciclismo, anche di recente è successo anche quest'anno nell'automobilismo, come ricordava prima Mario Poltronieri. Certamente è la tragedia che colpisce che colpisce tutti noi come un pugno, perché è comunque un volto che conosciamo, un volto simpatico, è una dannata morte in diretta, e questo ci colpisce in maniera straviolenta. L'allenatore capo classifica Francesco Guidolin con Sky, sentiamolo. Siete primi in classifica. Ora tu ti puoi schernire quanto vuoi, però è così. Cioè, Udine e l'Udinese così. Siete primi in classifica nel campionato italiano. No, è così. Infatti, quando gli osservatori come te, come Mario, come tutti voi, Billy, e tutte le persone che parlano di noi, che parlano di calcio, ma anche i miei colleghi, devo dire, nessuno di loro, naturalmente tenendo conto che la nostra società ha questo tipo di progetto e quindi è andata avanti su questo tipo di progetto, nessun mio collega ci nomina fra le candidate a poter vincere lo scudetto, ma lo dico senza ironia, perché è giusto che sia così, è giusto che siano le squadre che hanno investito di più, che hanno più, non solo tradizione, perché con la tradizione si va poco avanti, si va avanti invece con i fatti, con le cose concrete, con i budget, con le possibilità economiche e con i grandi calciatori. E quindi è una sorpresa anche per noi. Sappiamo che non durerà, o che durerà finché durerà, ma noi la viviamo con serenità, senza grandi pressioni, e ce la godiamo. Speriamo di potercela godere ancora per un po'. Questo Guidolin che parla bene, perché io sono tra quelli che non si sogna nemmeno di pensare che l'Udinese possa vincere lo scudetto. Mi piacerebbe molto, ma non credo che l'Udinese possa vincere lo scudetto, perché non è attrezzata. Lo scudetto è una maratona. In questo momento l'Udinese è prima con pieno merito. Speriamo che questa fuga prosegua, ma io non ci credo. Prima di Paolo da Torino, Maurizio da Latina, ascoltatori già in linea 800 24 00 24. Voglio farvi raccontare da Giacomo Bagnasco invece un'altra cosa successa nella mattina, perché questa è stata la mattina anche della vittoria mondiale degli All Blacks nel rugby. Ciao Giacomo. Ciao Carlo, ciao. È stata una partita tiratissima, tutta diversa da quella che nella prima fase aveva visto gli All Blacks prevalere 37-17 proprio sulla Francia. Stavolta la Francia ha giocato nella sua versione migliore, ha saputo impegnare gli All Blacks anche dal punto di vista psicologico, con una grande pressione, con un secondo tempo sempre all'offensiva, e questo punteggio finale 8-7 la dice lunga su come si è svolta la partita, sull'equilibrio che c'è stato in campo, anzi addirittura grazie a un secondo tempo quasi all'arrembaggio la Francia ha concluso con dati positivi per quanto riguarda il possesso della palla e per quanto riguarda la supremazia territoriale, cioè la presenza nella metà campo avversaria, 55%. Resta il fatto che gli All Blacks hanno chiuso questo periodo nero lunghissimo di 24 anni nel quale arrivavano quasi a ogni mondiale come favoriti d'obbligo ed uscivano prima o poi. Questa volta hanno avuto la tenuta psicologica, sicuramente si aspettavano una Francia dura, rocciosa, hanno rischiato molto nel secondo tempo, a un certo punto sembrava che il sorpasso, l'ennesimo sorpasso da parte dei francesi, come nel 1999, come nel 2007, fosse solo questione di tempo, invece per 32 lunghissimi minuti il risultato non si è più schiodato dall'8-7. Nel primo tempo hanno segnato gli All Blacks, gli unici punti del primo tempo, 5-0, una meta di Woodcock venuta anche su un errore nello schieramento difensivo in rimessa laterale dei francesi. Nella ripresa un calcio piazzato di Donald per la Nuova Zelanda, Donald quarto mediano d'apertura dopo che per una serie quasi incredibile di infortuni prima era andato out Daniel Carter, poi Slade nel corso del torneo, oggi anche Aaron Cruden, il quarto mediano di apertura, quello che è stato chiamato in squadra nella rosa mentre era a pescare con gli amici, è diventato decisivo con questo calcio. C'è stata subito dopo la meta della Francia con Dujotoir, migliore in campo, trasformata da Trinduc, su errore del mediano di mischia Piri Wilpu della Nuova Zelanda che rischiava di diventare l'eroe negativo sì. della partita, è stato sostituito e sull'8-7 la Nuova Zelanda è andata avanti. Se vogliamo fare un paragone con il calcio, si dice spesso che i neozelandesi sono il Brasile del rugby, ebbene anche il Brasile è stato 24 anni senza vincere un sì. titolo mondiale dal 1970 al 1994. Certo. Invece la Francia è sempre identica a se stessa, pericolosa nel calcio come nel rugby. La sì. Francia è arrivata 3 volte in finale e 3 volte ha perso a cadenza regolare di 12 anni. Sì. Nell'87 proprio con gli All Blacks, proprio nello stesso stadio, nel 99 contro l'Australia a Cardiff e adesso di nuovo all'Eden Park, di nuovo con la Nuova Zelanda che non aveva mai vinto una partita con uno scarto così risicato ai mondiali, cioè il minimo indispensabile. La Nuova Zelanda che nella fase a gironi ha fatto spettacolo, ha segnato un sacco di mete, quando poi si è cominciato a fare sul serio, tra quarti di finale, semifinali e finale ha segnato 4 mete. 4 mete in 3 partite che però sono state sufficienti e a questo punto è diventato... Pallone è diventato di Ghisa. Pallone è diventato di Ghisa. Gli All Blacks sono stati in fondo bravi a portarlo oltre quell'ultima meta. Grazie a Giacomo Bagnasco. Naturalmente, se volete intervenire anche sul rugby, il numero verde è sempre quello: 800240024. Al volo Paolo da Torino e poi Maurizio da Latina. Paolo, dica, buonasera. Buonasera, io volevo fare un intervento a proposito dei giocatori bandiera. Sì. Io sono un grosso estimatore dei giocatori bandiera, nel senso che coloro che rimangono legati ad una maglia per una vita calcistica hanno tutto il mio rispetto. Io fra l'altro sono un tifoso del Toro e spero che Rolando sì. Bianchi lo diventi. Sì. Volevo intervenire a proposito della non eleganza. Io le dico subito un po' meno. Io lo sono un po' meno dei giocatori di bandiera perché insomma danno e ricevono, è giusto che si abbia un trattamento riguardoso, però ci sono dei momenti dei giocatori che rischiano di diventare anche con il peso del loro passato un freno a mano alla costruzione. Questo può essere il caso di Del Piero, ciò che contesto è il modo. Dica. Anticipato la mia osservazione, volevo dire, ma qual è un modo elegante per lasciarsi, no? Nel senso che volevo dire la stessa cosa che ha detto lei, sia Totti che Del Piero quando cominciano ad avere 34-35 anni e sono legati alla maglia, forse dovrebbero anche loro prodursi in uno sforzo per lasciare sì. elegantemente certo, questa maglia. Certo, alla certo, sono certo, sono d'accordo con lei Paolo, ecco il modo elegante l'ha detto lei, cioè quello di lasciarsi di comune accordo ed insieme davanti a un microfono dicendolo pubblicamente e magari permettendo anche a quello che è stato un giocatore simbolo di fare un ultimo giro di pista in tutti gli stadi italiani. Io continuo a dire che uno dei motivi per cui ammiro molto gli americani e il loro modo di vivere lo sport è che queste vicende vengono gestite in maniera molto diversa. Ricordo grandi addii nel basket, nell'hockey, nel football, annunciati con una stagione d'anticipo apposta per permettere a questi grandi campioni di fare un ultimo giro d'onore raccogliendo gli applausi e l'affetto di tutti gli stadi. Questo dalle nostre parti è un po' difficile che succeda adesso, ma anche domani, dopodomani o tra chissà quanto, purtroppo. Saluto Roberto Scaltritti in regia per questa seconda ora di A Tempo di Sport e sempre Giorgio De Luca in redazione. 800 24 00 24 per le vostre voci e i vostri commenti. Ci sono anche quelli che scrivono, SMS segnatamente, c'è cioè chi vorrebbe mettere a pane e acqua Abbiati, perché insomma evidentemente... Non sta giocando una grande stagione e questo Questa è cronaca, il portiere del Milan. C'è chi, Roberto da Cortona, domanda un pronostico sulla corsa scudetto, la mia favorita per la corsa scudetto, e aggiunge: io non riesco a fare un pronostico e la cosa non mi dispiace. Così Roberto da Cortona, la mia favorita è il Milan per, in questo campionato così strano. Maurizio da Latina, buonasera. Buonasera, dottor Genta. A Biagio lo metterei un po' in panchina perché gli farebbe bene. Però per un portiere è complicato, il turnover secondo me non può riguardare i portieri, perché sono... Dottor Genta, fa una papera alla partita, ormai è diventato quasi ripetitivo. E allora lo si boccia, non lo si fa più giocare, perché per i portieri funziona così, cioè non può esserci turnover in quel ruolo così delicato, a mio parere. Dica. Io penso che il problema del Milan sia un problema di test e di stanchezza mentale. Oggi, stamani, il primo tempo erano molli, svogliati, presuntuosi. Nel secondo tempo, fortunatamente, con l'ingresso di Boateng, con la cattiveria agonistica di Boateng, che gli ha fatto bene essere stato messo in discussione, la partita è cambiata. E poi volevo una sua opinione, la quale tengo particolarmente, sul giocatore Boateng. Come lo vede nel novero dei centrocampisti internazionali? È uno dei più forti? E quale giocatore centrocampista del passato può paragonarsi? No, del passato grazie. Nessuno. Mi sembra un giocatore totalmente nuovo, grazie a lei Maurizio, mi sembra un giocatore totalmente nuovo anche come caratteristiche. È un giocatore di ultima generazione, a me piace molto Boateng perché comunque è uno che ha un fisico pazzesco, a piedi, a grande volontà. Le prime volte che lo vidi giocare nel nostro campionato dissi che doveva disciplinarsi dal punto di vista tattico, cioè doveva imparare la grammatica della tattica, cosa che mi pare stia facendo. Ha vissuto un momento complicato che conosciamo bene, perché in ambienti vicini al Milan si dice che il suo comportamento, ma ormai non è nemmeno più un mistero, ne ha parlato ancora oggi Allegri, tra poco ve lo faccio sentire, il suo comportamento non sia stato propriamente da atleta in questo in questi mesi. Ha pagato anche con delle panchine, ha pagato anche con degli infortuni, perché se non si è al 100% non si fa vita di atleta, lo sport di oggi non fa sconti. Però mi sembra un giocatore unico nel suo genere, non so fare graduatorie rispetto al passato, perché non esistono dei giocatori simili nel passato. Non so neanche dare una valutazione sul suo valore assoluto nel calcio di oggi. Certamente è un giocatore che per il Milan è fondamentale, perché è l'unico che possiede quelle caratteristiche, questo sì. Andrea, provincia di Bari, buonasera. Sì, pronto, buonasera, salve. Salve, dica. No, io volevo solo omaggiare praticamente un grande, Marco Simoncelli, che oggi non c'è più. E forse io stamattina ho fatto una passeggiata in bici, sono rientrato a mezzogiorno e ho sentito la notizia, cioè è veramente sconfortante. E da lì capisco alla fine che la strada o la pista è... L'asfalto è un qualcosa che devi dare rispetto, tutto qua. Certamente. Se ti dà quella bastardata ti può far male, tipo anche col ciclismo, che è molto Wouter Weiland alla fine. Appunto, lei sa bene come non siano solo gli sport dei motori a comportare una componente di pericolo, e lei ha ragione, la strada esige rispetto. E le corse esigono rispetto, perché per l'appunto si deve fare i conti anche con questo. Io la ringrazio. Franco da Milano, buonasera. Sì, buonasera a lei, gente. Senta, una cosa riguardo Del Piero, no? Sì. Di che si è parlato in questa settimana. Io sono un tifoso milanista, ma voglio fare praticamente un parallelismo. Ma lei lo vorrebbe Del Piero al Milan? Perché se ne è anche parlato, se ne è anche blatterato. Io lo vado a prendere io a Torino. Davvero? Io lo vado, sì. Assolutamente, perché giocatori di classe così cristallina non ce n'è moltissimi in Italia. Non ce n'è moltissimi certamente, però bisogna anche fare i conti con l'anagrafe, nel senso che no, ma per l'amore, io lo faccio giocare 20 minuti, non lo faccio giocare molti di più. No, ma non era questa la domanda. No, lo so. Era questa, cioè il discorso è questo. 12 anni fa io mi ricordo perfettamente Milan di Zaccheroni, che non aveva grandissimi giocatori, poi abbiamo vinto un campionato, ma con la risorsa enorme di Donadoni in panchina. Questo forse lo ricordano in pochi. Donadoni in panchina con Zaccheroni con Zaccheroni che faceva appunto il primo anno nel Milan. Questa è una risorsa, se la sì. Juve aveva intenzione di tagliare fuori un giocatore. Però guardi Franco, posso dire una cosa, ieri se ne sì. parlava anche in maniera interessante secondo me con Andrea Zorzi che ci ha dato un suo punto di vista. È molto difficile per il campione. Donadoni è stato bravo in questo ad accettare questo ruolo marginale all'epilogo della sua carriera, ma non ce n'è tantissimi, perché chi è stato grande campione fa fatica ad accettare un ruolo subordinato, ad accettare un ruolo da gregario, da attore non protagonista. E se lo accetta, magari lo accetta controvoglie, se lo accetta, magari lo accetta comunque sapendo di essere un elemento di pressione, se vogliamo, sulla tifoseria, sull'allenatore, eccetera. Molto difficile, è molto complicato giocare questo ruolo. Quindi, da un certo punto di vista, io capisco la Juventus che legittimamente vuole ricostruire e forse vuole togliersi anche questo, il peso di questo importante e bellissimo passato. Non sto discutendo la scelta che io trovo condivisibile, sto discutendo i modi e la gestione della questione, compresa la gestione da parte della panchina ieri sera, che mi è sembrata ampiamente discutibile e vagamente offensiva nei confronti di un giocatore come Del Piero per quello che ha rappresentato e dopo una settimana come questa. Semplicemente questo è il discorso che faccio. Carlo da Foggia, buonasera. Buonasera. Volevo fare un paio di domande sulla Juve, sono tifoso della Juve. Prego. Niente, volevo chiederle se i due pareggi con Chievo e quello di ieri col Genova siano stati colpa di Conte e dei suoi cambi, visto che stavamo ieri sul 2-1, ha tolto l'esterno di fascia e ha messo sì. Pazienza, che è uno che rompe, diciamo, il gioco. Poi sì. le volevo chiedere, secondo lei, dove può arrivare questa Juve quest'anno? Domanda molto pertinente quella che ha fatto caro Carlo da Foggia. Io credo che sia stato un errore quello di Conte nel momento in cui ha segnato il gol, cambiare l'assetto della squadra e mandare anche un messaggio importante agli avversari, perché anche queste cose contano. Un messaggio che voleva dire: adesso ho paura, cerco di coprirmi e rinuncio alle mie caratteristiche. Mi sembra che la Juventus sia una squadra pure con molti problemi. Ha problemi di fragilità difensiva, ha un centrocampo che secondo me non copre adeguatamente, non protegge adeguatamente la difesa, soprattutto quando gioca con così tanti esterni offensivi. È una squadra che soffre quando viene attaccata in velocità, insomma è una squadra che di difetti ne ha molti, che possono essere corretti, però non la vedo come una squadra da scudetto, nel senso che secondo me è stato un po' sopravvalutato in questo bizzarro avvio di campionato. Poi il 2-0 arrivato nel modo che conoscete, con pieno merito, ma nel finale con il Milan, probabilmente ha alimentato un po' questo equivoco. La squadra più forte in questo momento rimane il Milan, che pure è una squadra che ha diverse cose da risolvere, però rimane la squadra più forte e più completa. Non vorrei che, risolte queste cose, la seconda parte del campionato si traducesse in una cavalcata da parte del Milan, perché concorrenza reale io sinceramente non ne vedo. Quando succedono cose così, quando succedono queste cose, nulla ha più senso. Condoglianze alla sua famiglia, quanto ha detto Luis Enrique, allenatore della Roma, commentando la morte di Marco Simoncelli. Roberto Ungaro è stato pilota, è stato telecronista del motomondiale per Eurosport, oggi è direttore di Riders, e io lo ringrazio per aver risposto e per parlare con noi in questa domenica che vorrei mi raccontasse. Ciao Roberto, ciao direttore. Ciao, ciao, un saluto a tutti. Vorrei che mi raccontassi la tua domenica, dopo essere stato pilota e dopo essere stato telecronista ed essendo direttore di un giornale che si occupa ancora di moto. Guarda, ti racconto proprio la vera verità. Sono in trasferta lavorativa a una presentazione stampa di un nuovo prodotto, una moto che uscirà al salone, era un aereo. E atterrati abbiamo sentito la notizia, era appena caduto ma non c'era ancora l'esito finale e siamo raggelati. Ti dico una cosa, ho subito pensato, perché ne hanno detto il casco che si è sfilato, ho subito pensato al peggio e non volevo pensarlo. Una però cosa sei stato pilota. Sono stato pilota. E l'ha detto anche Stoner, no? Sì, ti dico un particolare, perché ho pensato al casco che si è tolto, perché sai che Simoncelli aveva questo marchio di fabbrica che erano i capelli, e sotto, per contenere così tanti capelli, magari una misura in più, ho pensato veramente, oddio mio, no, speriamo di no. Poi ho visto le immagini, sono raggelato, ma ho visto quel cinturino che si è strappato. questo vuol dire che il cinturino è nato per resistere fino a una certa forza, poi deve mollare, deve sganciarsi, deve strapparsi, perché altrimenti sarebbe troppo lesivo e mortale per l'osso del collo. Quindi quello è un pensiero brutto che però chi è dentro lo sa, lo pensa, lo ha pensato, e non si è detto questo. E questa è fatalità. Un'altra cosa che ho sentito era che lui, l'elettronica, si è data colpa all'elettronica. In questo caso secondo me non è elettronica, nel senso che la moto ha fatto quella traiettoria perché lui è rimasto attaccato, lui era il cuore oltre l'ostacolo, ci provava sempre, ci stava cercando di tenere sulla moto col gomito la gamba ha perso le pedane, è rimasto aggrappato, e questo probabilmente gli ha fatto dare ancora un filo di gas. Ecco perché la moto poggiata per terra ha continuato per quella traiettoria come se fosse una macchina, non ha strisciato per la tangente, e lì fatalità. Edwards che gli è passato sopra, e poi forse anche Valentino l'ha sfiorato, e questa è la cosa drammatica. Infatti Valentino dopo aveva il parafango, la carena rotta sulla sua Ducati quando ha ripreso. Io sono raggelato perché sono cresciuto con lui professionalmente parlando, con l'ultimo giornale, e ti racconto un aneddoto. Dicembre 2007 avevamo un cuore tutto sulle tribù e cercavamo una persona che rappresentasse le diverse tribù. C'è stato un solo pilota che si è reso disponibile, lui, perché con la sua ironia è stato 8 ore in studio a cambiare il suo marchio di fabbrica, cioè i capelli. L'abbiamo trasformato in punk, in pack and bestie, in rockabilly, in nerd, e lui rideva, giocava, è stato lì 8 ore in studio, solo lui lo poteva fare. Lui perché aveva dentro quella cosa speciale che hanno in pochi e che per ora c'ha solo Vale. Infatti ci avrebbe reso meno amaro il dopo Vale. Ma non perché va forte, è arrivato lì, fa le pole, ma perché ha qualcosa, perché bucava lo schermo. È questo che aveva di speciale quel ragazzo, veramente un bravo ragazzo, romagnolo, con una fidanzata, era giovanissimo, 24 anni, fidanzato da tanti anni, con la stessa ragazza di Bergamo, chilometri e chilometri, un amore bellissimo, andava in giro con i genitori, tra una gara e l'altra facevano le vacanze col camper, lo sentivi guardare le foto. Un bambino meraviglioso in famiglia, una cosa che ha davvero lasciato troppo un vuoto, sì. Non è colmabile. Direttore, ti faccio un'altra domanda da pilota, se mi permetti. Il rischio è te lo porti in moto. Tu sai che può succedere, sì, qualcosa di questo tipo, lo sai perfettamente. Difficile da accettare per tutti noi, forse per un pilota paradossalmente e un po' cinicamente un po' meno. I piloti lo sanno, sono consapevoli, ma non ci pensano, perché se dovessero pensarci è il giorno in cui smettono, però sono consapevoli. Questo rischio fa parte del gioco, forse gli sport a motore sono così affascinanti anche per questo. Non voglio essere macabro, non voglio essere troppo duro, però fa parte del gioco, perché essere pilota è un qualche cosa di speciale, sei consapevole che corri questo rischio. Lui è stato veramente molto molto sfortunato. E lì non si poteva fare niente, non c'è nulla, perché quei centimetri del corpo non si possono coprire, certo. Lì c'è la mobilità, il collo, la testa deve muoversi, e quindi anche con l'airbag, lui è uno dei piloti, certo, che corre con l'airbag, è l'ultimo ritrovato, ma lì non c'è nulla da fare. L'ultima cosa, direttore, è il pensiero a Valentino Rossi. Molti ascoltatori ce l'hanno chiesto, ma adesso Valentino che fa? È solo un'impressione che forse non bisognerebbe neanche dare, però non sarei sorpreso personalmente se il casco non lo infilasse più. Io la penso come te, addirittura io pensavo che quando si è fatto molto molto male poteva anche smettere, chiudere in bellezza. Sai cosa l'ha fatto tornare? La voglia di guidare, il fatto che si annoia a star senza, cioè lui guida e quindi vive, ed è tornato. Questa volta secondo me c'è una buona ragione per mollare, per smettere, perché comunque se lo porta dentro, lui l'ha visto con la coda dell'occhio, forse l'ha strisciato anche, e questa cosa può veramente portarlo a dire basta, a prendere il casco al piombo, cioè non mi stupirei, sì. Poi il circo deve andare avanti, perché questi sono i motori, è inutile, adesso domani vedremo pagine, sentiremo di tutto e di più, è vero, ma gli sport a motore ce l'hanno dentro questa componente, e non voglio essere ancora troppo materiale, ma forse sono affascinanti anche per quello. Certo. Certo, grazie direttore, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, grazie davvero. Ciao. A Roberto Ungaro. Avete sentito la testimonianza di Roberto Ungaro, da pilota, da giornalista, ma da amico di Simoncelli, è stata particolarmente toccante. Non so se la pensate così anche voi. 800 24 00 24, numero verde, torno a parlare con gli ascoltatori anche di altri temi, perché siamo qui apposta. Rocco da Foggia, buonasera. Buonasera Carlo. Buonasera, dica. Senti, volevo parlare sulla questione di Delfino. Sì. No, quanti campioni insomma sarebbero entrati al 90esimo ieri sera? Non so, è una domanda. Quanti? Dico quanti. Magari anche qualche non campione avrebbe rifiutato di entrare, ma Del Piero non è così. Cioè, sì, lui. Infatti, non è neanche la prima volta, perché era stato, ha subito trattamenti di questo tipo, se ti ricorderai, anche con Capello, ad esempio, in epoche diverse, in momenti diversi, eccetera, eccetera. Però non è la prima volta che viene utilizzato in questa maniera. Lui però è molto intelligente, sa benissimo che rifiutarsi di entrare sarebbe un autogol clamoroso, non lo farebbe mai. Sì, è un'ennesima dimostrazione del grandissimo campione che è, insomma. Grazie Carlo. A te Rocco, alla prossima. Alberto, provincia di Rimini, buonasera. Pronto? Pronto Alberto, buonasera. Sì, buonasera, volevo fare una domanda sul Milan. Sì. Io sono piuttosto, essendo tifoso del Milan, sono piuttosto critico nei confronti del mio allenatore Allegri. Sì. Che secondo me il Milan, concordo sul fatto che è la squadra più forte del campionato, e anche oggi mostra notevoli difficoltà nell'affrontare squadre cosiddette provinciali. Secondo me anche le sue scelte di mettere giocatori fuori ruolo, come oggi Ambrosini sul centro-destro. Alberto, a me Ambrosini più che fuori ruolo mi è sembrato fuori condizione in maniera abbastanza evidente. Infatti concordo, perché era un mese che non giocava, quindi non capisco perché doveva giocare Ambrosini. Poi oltretutto me lo metti fuori ruolo, quella è una scelta. Emanuele molte volte lo vedo giocare dietro le punte. Secondo me siamo fortunati che non c'è una squadra che è andata via, sì, da questo punto di vista, perché secondo me se ne, perché secondo me Alberto Allegri s'arrangia, no? S'arrangia con quello che ha, ha giocatori che vanno a chiudergli dei buchi aperti dagli infortuni. Però certamente è un Milan con dei problemi, è un Milan che se manca Thiago Silva come mancava oggi, becca tre gol dal Lecce e ha tutt'altra solidità difensiva. È un Milan che sta recuperando ora Boateng, Ibrahimovic ha avuto i suoi problemi fisici e non solo. Un Milan che si è fatto ha dovuto anche farsi trascinare da Cassano per un certo periodo. È certamente un Milan con dei problemi, però se vogliamo vederla in positivo, all'interno di tutte queste difficoltà è un Milan che è lì a 11 punti, che ha perso a Torino, che ha avuto risultati molto deludenti e che è in pienissima corsa per arrivare, secondo me tra non molto, in testa alla classifica. Dunque certamente se nonostante tutti questi problemi il Milan è ancora ben vivo, mi sembra un segnale particolarmente incoraggiante. Sulle scelte di Allegri non mi sembrano criticabili da questo punto di vista, semplicemente ha dovuto arrangiarsi con i giocatori che a un certo punto si è trovato a disposizione. Luca da Napoli, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Dica. E complimenti anche per la trasmissione. Grazie. Volevo prima di tutto fare le mie condoglianze alla famiglia Simoncelli. Certo. E dire che oggi ha perso un fratello, ha perso un figlio un po' tutta Italia, insomma. Vero, vero. Perché Luca, se sorrisi c'era un amico per tutti, anche per chi non lo conosceva. Vero, vero, vero. Ma no, ma gli volevamo bene tutti quanti. Pur non era una figura molto simpatica, al di là di chi ama quello sport o meno, era una figura simpatica, un ragazzo pulito. Vero. Si vedeva già dalla TV, insomma. Sì. E poi volevo fare una domanda su Napoli. Volevo dire, secondo lei dove può arrivare questo Napoli? Ce la faremo noi, io personalmente che sono dell'87, a vedere il Napoli vincere lo scudetto, non dalle videocassette, non dai filmati di repertorio. Ma io nel Napoli continuo a credere, Luca. Nel Napoli continuo a credere, perché se il Milan è la squadra più forte, il Napoli è quella che ci crede di più, che ha più fame, che ha più voglia di farlo. Non so se ha l'organico sufficiente per arrivare a questo risultato, però in una stagione così bizzarra potrebbe davvero essere la grande occasione. È una squadra che certamente sta subendo / soffrendo un po' la meravigliosa avventura di Europa League, che drena energie soprattutto emotive, perché Mazzarri chiede tanta intensità, chiede tutto anche dal punto di vista emotivo ai suoi giocatori. E tenere un voltaggio così alto, tenere una corrente così alta, per, con impegni così ravvicinati, stiamo vedendo che Napoli ha pagato più che, sottolineava un ascoltatore giustamente, nelle partite in uscita dalla Champions League, in quelle che hanno preceduto questi grandi impegni europei. Ha perso punti per strada, se no poteva essere in testa alla classifica. Non penso avesse la possibilità di disegnare già una fuga decisiva, perché questa sarebbe follia, però vale un po' il discorso fatto per il Milan. Se tra tutti questi impegni e con tutto questo dispendio di energie fisiche ed emotive e nervose, il Napoli riesce comunque a stare in linea di galleggiamento, beh, potrebbe essere una primavera interessante. Già che ci siamo e che ve l'ho promesso, vi faccio sentire un po' di Allegri oggi nel dopo partita, prima sulla gara e poi su Boateng. Allegri: ma quando fate le scelte, quando si fanno le scelte, credo che le faccio sempre con la sicurezza di aver scelto bene. Poi dopo il campo dice sempre se sbaglio o no. Hanno cambiato i due alla fine del primo tempo e abbiamo aggredito un pochino di più, e questo ha fatto sì che siamo stati anche più pericolosi in fase offensiva. Era l'unico modo, soprattutto, dare fiducia e che i ragazzi avessero la fiducia e la convinzione di poter riaprire la partita, visto che le potenzialità questa squadra per farlo ce l'ha. Questo era Allegri sulle sue scelte, all'inizio forse effettivamente criticabili, ma poi è entrato Boateng. Allora sentiamo cosa ha detto l'allenatore del Milan sull'autore della tripletta di oggi. Ma no, innanzitutto sono contento per lui, perché nelle ultime settimane era stato un po' attaccato nella sua vita privata, forse l'ha fatta anche bene, quindi ringrazio chi l'ha attaccato, ma è un ragazzo di 24 anni. È un ragazzo che deve crescere, gestire la vita privata sicuramente non è facile, ma sicuramente lo farà nel migliore dei modi più avanti. Io nel frattempo sto leggendo anche dei, non mi sembra il caso di leggerli tutti, perché sono veramente molti, ma dei messaggi molto belli a ricordo di Marco Simoncelli. La maggior parte sono di mamme, è una cosa anche comprensibile, anche normale. Ad esempio questo, leggo solo questo di Pierluisa, che scrive che sente la radio mentre, di solito la domenica, mentre stira, e di solito sente i suoi figli che fanno finta di studiare mentre canticchiano e inviano sms agli amici. Oggi invece lasciamo pensieri tristi per Marco, è come un figlio che non tornerà più a casa. Sono vicino ai suoi cari, Pierluisa. Antonio, Messina, poi Roberto, provincia di Alessandria. Buonasera. Buonasera. Antonio, dica. No, io non ho seguito purtroppo la trasmissione dall'inizio, non so se ne avete parlato. Di cosa? Volevo chiederle un commento sul 6-1 del City contro, sì, lo United all'Old Trafford. Non so se è mai capitato nella storia recente dello United. Guardi. E poi al volo, dica. Una domanda sempre riguardo l'Inghilterra. Qualche tempo fa era uscita la storia del tribunale inglese che aveva consentito a un pub inglese di trasmettere con un decoder greco, con una scheda greca, le partite in diretta, sì, del calcio inglese. Sì. Non so se quella cosa è andata avanti, c'erano dei ricorsi, ne ha parlato anche con Falonieri, qui si distrugge tutto, insomma. Se quella storia sta andando avanti, ci saranno anche degli sviluppi futuri. Ecco. Guardi, sull'evoluzione della cronaca di questa storia non so molto, so di questa sentenza che certamente aveva fatto un po' tremare i grandi broadcaster televisivi che pagano a caro prezzo i diritti sulle partite, e quello era un modo, un sistema per aggirare l'ostacolo e quindi rendere fruibili le partite a tutti. Quanto al derby di Manchester, beh, no, ho detto all'inizio di questo 1-6 che non so quanti precedenti abbia nella storia dello United, però certamente è lo schiaffo più violento a memoria che si possa ricordare nell'era Ferguson. Non mi pare ci siano state altre debacle di questo tipo, considerato il fatto che lo United giocava in casa, che il derby era molto importante dal punto di vista della classifica, che c'era grande attesa, che una squadra di grande esperienza ad ogni livello come il Manchester United, beh, tutto ti aspetti, salvo che, anche se era in 10, ha giocato in 10 per un'espulsione per molto tempo, tutto ti aspetti salvo che sbracchi in questa maniera. Oggi devo dire che il Manchester City di Roberto Mancini ha giocato una grande partita, e nel Manchester City di Roberto Mancini Balotelli ha brillato in maniera pazzesca, perché Il primo gol è di una bellezza, di una classe stordente, su un centro basso, da un cross basso dalla sinistra. Balotelli ha fatto in un nanosecondo la cosa che fa un campione, e cioè prende l'angolino appoggiando la palla, non tirando forte, ma appoggiando la palla di piatto sul palo lontano e trovando l'unico spiraglio disponibile. Quindi un gol di grandissima classe. Il raddoppio sempre di Balotelli ad inizio ripresa, e poi da lì è stato onestamente tutto molto facile, molto semplice per il Manchester City. C'è stato questo gol del momentaneo 1-2, ma non hai mai avuto l'impressione che l'United potesse rimettere in piedi questa partita. Infatti sono arrivati nel finale anche in maniera, se vogliamo, strana, 91esimo, 92esimo, 93esimo, una raffica di gol di Dzeko e di Silva, che hanno scritto questo risultato umiliante per il Manchester United. È stata la grande giornata del City di Mancini e soprattutto di Mario Balotelli, che ieri ha sparato i fuochi d'artificio e si è incendiato la casa, ne ha fatto un'altra delle sue, però sul campo oggi ha dimostrato di essere un giocatore non solo in crescita, ma in un momento in cui non sbaglia nulla, onestamente non sbaglia nulla. Roberto, provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno, signor Grancini. Sono Carlo Genta, ma fa niente. Dica. Ah, mi scusi, ero convinto che fosse Grancini. Niente, io le volevo dire, sono molto triste per Simoncelli, come tutti. È la prima volta dopo un sacco di tempo che piango oggi. Io non sono appassionato di motociclismo, ma sono rimasto veramente male. Poi sono andato a San Siro a vedere la partita, non è stata una gran partita, ma oggi contava più che altro il risultato, credo. È sicuro, no, non crede, certamente contava soltanto il risultato, anche perché era difficile, penso che nemmeno lei si aspettasse un Inter brillante oggi, no? Sicuramente no, però appunto contava il risultato. E ho visto molto bene Chivu da centrale, anche se il Chievo oggi sinceramente è poca roba, sì. A San Siro è stata poca roba, però da centrale lo trovo molto meglio che sulla sinistra. E volevo sapere una cosa da lei, ho sentito che lei reputa giustamente il Milan favorito per lo scudetto, ahimè credo che sia così, sì. Se noi dell'Inter possiamo competere col Milan oppure no, ritirandoci su, io credo che arriveremo ancora davanti alla Juventus, cosa ne pensa? Grazie. Ma io credo che, io non vedo un Inter che possa tornare nella corsa scudetto, onestamente, ora è allo stato attuale delle cose. È una squadra che sta vivendo il tramonto di questo ciclo, che ha ancora diversi problemi. Non riesco ad immaginare un Inter che sia in grado di tornare in groppa a questo cavallo. Credo sia un Inter che debba fissare un obiettivo realistico, che può essere quello dell'ingresso nei primi tre posti che valgono la Champions. E anche quello, se ne parlava anche prima, molte squadre sono davanti all'Inter, molte squadre che corrono. Io credo che l'Udinese non possa essere pericolosa in termini di vittoria finale, però certamente sarà lì a battersi per molto tempo per posizioni elevate di classifica. Credo che il Napoli resterà una cosa seria per tutta la stagione. Credo che la Lazio non sia così difficile da scalzare. Stasera vediamo il posticipo che potrebbe, in caso di vittoria a Bologna, portare la Lazio al secondo posto, alle spalle dell'Udinese. Insomma, tante avversarie agguerrite, credibili, serie, quindi non vedo un Inter che possa reinserirsi così facilmente in questa corsa, in tutta onestà. Filippo Maria Ricci dalla Spagna, ciao Filippo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio, una parola grossa, vista la domenica che abbiamo vissuto, purtroppo. Però Filippo, stavamo parlando di Balotelli, di campionato inglese, Balotelli che... L'ho visto il derby, l'ho visto. Ma tu ti ricordi uno United che prende uno schiaffo così violento? A memoria? No, perché non ho avuto tempo di fare ricerca. No, mi sono, guarda, te lo dico, nel 1955 c'è un 5-0 per il City, però mi bastano le parole di Sir Alex, che con grande onestà ha detto la peggior sconfitta della mia carriera, incluso giocatori, da giocatore e da allenatore, insomma, ecco. E per cui se lo dice Sir Alex basta così. È un City da titolo questo, eh? Sì, il City è assolutamente vero, anche perché poi sto vedendo che il Chelsea sta perdendo a Loftus Road, sì, col QPR, quindi se ne va. Oggi sarebbe una, quella che qua chiamano una giornata redonda, no? Per il per il City, cioè la miglior domenica possibile, vinci il derby 6-1, il Chelsea perde, ieri il Liverpool ha pareggiato, insomma rimangono più o meno non senza avversari, perché il campionato inglese non è mai morto, però insomma, però è fuga vera, però è fuga vera. Io continuo a pensare, sì, che Balotelli possa diventare l'unico grande attaccante a livello internazionale per il calcio italiano. Compreso io Giuseppe Rossi. Io non ho grande fiducia, in realtà, dal punto di vista caratteriale è come Cassano, cioè Cassano poteva essere Maradona per me, per come la vedo io. Balotelli può essere un Ibrahimovic al quadrato, decisivo anche nelle partite decisive, fortissimo, però secondo me vincerà sempre la sua testa. Sì. Per cui sì, enormi partite, grandissimi momenti, però a livello di carriera secondo me non ce la fa, però magari ce la facesse, però insomma ecco, non è così. Come dice Mancini, è matto, mi sono andato a dormire in albergo. Ci fermiamo un istante per il traffico. Filippo, resta lì che subito dopo facciamo due chiacchiere su questo messaggio di Giuseppe. Messi esce a testa bassa dopo il rigore sbagliato, il Manchester United che perde 6-1 in casa, possono essere simboli dell'inizio, della fine di due cicli? Per l'United magari sì, per il Barcellona mi sa di no. Allora, caro Filippo Maria Ricci, veniamo a pagina 22 della Gazzetta dello Sport di oggi. Da una parte Cristiano Ronaldo che artiglia la partita, questo sembra voler dire la foto sopra il tuo articolo, e dall'altra Messi che tenta un controllo ma che soprattutto sbaglia un rigore a tempo scaduto. E prima c'è stato un ascoltatore che ha mandato un SMS: abbiamo una notizia, non è un extraterrestre, è terrestre anche lui. Sì, infatti oggi il titolo della prima pagina di Sport era "è umano", quindi sì, perfettamente in linea con l'ascoltatore, per cui sì, però chi non è stato umano è stato il portiere del Siviglia, questo ragazzo di 29 anni che due anni fa voleva addirittura lasciare il calcio, ci ha messo una vita per diventare titolare, per scalzare Palop, che a Siviglia era abbastanza un mito, e ieri sera si è inventato la partita della vita, insomma. Ha fatto, gli hai dato 9 in pagella. Ma sì, sono 5 parate spettacolari e più il rigore, e bisogna considerare che solo 4 squadre in 3 anni e un pezzo sono riuscite a fare 0-0 al Camp Nou. Sì. Mi sembra che il 9 se lo meriti ampiamente, anche altri compagni così, però i tiri non è che dice hanno difeso bene, quindi anche no, è che difendevano abbastanza male, cioè arrivavano un po' da tutte le parti e lui ci ha messo la pezza una volta una dopo l'altra, insomma. E però detto questo, no, non parlerei assolutamente di crisi. È vero, c'è un dato, se vogliamo, così curioso, è la partenza più lenta del Barcellona di Guardiola, 18 punti, due volte ne ha fatti 19, una volta ne ha fatti 22, però insomma mi sembra fisiologico. Insomma, io li vedo comunque, no, è chiaro, fa impressione perché nelle prime 4 partite in casa erano 21-0. Allora sì, poi dice fanno 0-0, però appunto non c'è. E da lì a parlare della fine del ciclo mi sembra lontana, no, insomma. No, assolutamente. E poi no, stasera vediamo questa grandissima storia del Levante, che è la squadra più vecchia della Liga, no? Cioè, va in campo con una squadra che ha di media 32 anni. E stasera vince, va in testa da sola. Non è lì mai che avremo un giocatorino per loro. Cioè, più di uno. No, uno di sicuro, numero 10 della Juventus. Beh, sarebbe bellissimo questo canto del cigno al Levante, dove già hanno vestito quella maglia a gente come Cirillo o Tommasi. Mi sembra un po' irriverente, no. Stiamo diventando un po' irriverente. No, assolutamente no, però è una bella storia, divertente, una squadra che era appunto in crisi, non riuscivano a pagare gli stipendi, così adesso vanno un pochino meglio e vediamo se stasera devono vincere a Villarreal, che fino all'anno scorso era impensabile, quest'anno già è molto più semplice. Però no, attenzione, insomma, più che crisi del Barcellona, che non c'è, parlerei però di una grandissima crescita del Real Madrid, questo sì, è innegabile. Hai dato 7, sto Madrid, guardando i tuoi voti, 7 a Mourinho, 7 a Casillas, vediamo, Di Maria 7, Kakà 6, Ronaldo 7,5, Higuain 7. Ma perché hanno giocato solo un tempo, erano tutti da 8 o 8,5, se la partita fosse finita al 45esimo. un primo tempo spettacolare, se qualcuno ha del tempo di guardarsi degli highlights vale la pena, i primi 45 minuti, poi hanno smesso completamente di giocare, per quello i voti poi corrispondono un po' a questo, insomma, sono un po' spariti, però no, una squadra fortissima, conscia della propria forza. E comunque, guarda caso, e io sono già due o tre volte che insisto su questo tasto, e tutto questo nasce da quando, dopo la sconfitta con Levante, il pareggio col Racing a Santander, e i giocatori prendono da parte Mourinho e gli dicono adesso basta. E non so bene in che termini, però il succo è questo, dice adesso di fare storie, di accusare gli altri, accusare i giocatori. Lui dopo la sconfitta con Levante punta il dito contro Khedira, sì, che poveretto, sì, insomma, vedi, aveva fatto un'ingenuità, ma insomma è comunque un fedele servitore, e da quel momento fase buonista di fila, sì, lui fa il buono a fatica perché gli scappa sempre via qualcosina, però insomma va bene, e preferisce appunto fa il tifoso dell'Inter, che va benissimo, e i ragazzi sono più tranquilli, scendevano in campo con uno zaino pieno di sassi, sì, di tensione, certo. E adesso sono 6 vittorie, mi sembra che siamo un 25-3 insomma come parziale, è cambiato Real Madrid, e così adesso si può parlare di un Real Madrid pericoloso che fa paura, e insomma è un Real Madrid serio, l'unica squadra in Champions con 3 vittorie, certo, certo. Senza gol incassati. Insomma, disinnescato, quindi... Mourinho, la squadra adesso funziona. Si è tolta lo zaino e adesso corre. Esatto. È così. Poi dopo lui non l'ammetterà mai, però. Ma figurati. Questa però è la realtà. Anzi, stai tranquillo che la fase buonista finisce presto. Non so quando, sì, però me l'aspetto da un giorno all'altro. Però siccome è intelligente, perché non ha, secondo me ha capito che è meglio così, perché qui soprattutto, perché io quante volte ne abbiamo parlato noi due in questa trasmissione, io avrei detto a Mourinho, dico guarda che la Spagna è diversa dall'Italia, non è fatta di polemiche, qui è fatta di bel gioco, cioè sono altri valori premiati, e non è come in Italia che comunque appunto fai le manette e sei comunque un gran personaggio, no, qui non gli interessa, e adesso non so, per un po', da qualche settimana ha cambiato registro e sembra averlo capito. Ho capito che non si sta divertendo il ragazzo. Grazie Filippo. Ciao. Un abbraccio grande. Grazie. Ciao. Filippo Variarici, Jonathan provincia di Pavia, poi Claudio da Latina, poi tutti a casa. Jonathan, dica. Buonasera. Praticamente le volevo fare una domanda riguardo al Milan. Innanzitutto, condoglianze alla famiglia Simoncelli e a tutti i tifosi del, sì, motociclismo per questo lutto che colpisce praticamente tutti. Sì. La mia domanda è questa. Cioè, oggi al Milan non sembra che il signor Allegri stia sbagliando un po' troppo ultimamente? Ma Jonathan, l'ho detto, sì, prima, mi sembra di no, nel senso che la formazione iniziale di oggi è stata giustamente punita perché forse non ha fatto le scelte più corrette, però non dimentichiamo che si è trovato a doversi reinventare un po' la squadra ogni 3 giorni, ha lavorato in condizioni molto difficili. Voci di corridoio dicono di un Allegri dall'inizio della stagione un po' nervosetto per il mancato rinnovo del contratto, ne ha parlato recentemente dicendo non è il momento giusto, però secondo me da lì a criticare l'operato di Allegri ne passa un pochino, insomma qualche scelta la sbaglia anche lui, quella di Ambrosini di oggi ad esempio mi è sembrata sbagliata, Boateng era rientro, è entrato e ha risolto la partita, non vedo grandissime colpe onestamente nell'operato di Allegri in questo periodo. Claudio da Latina, buonasera. Buonasera Carlo, innanzitutto mi dispiace per quello che è successo oggi. A tutti noi, come a tutti noi. In particolare non sono un grande tifoso di MotoGP, ma è un mio coetaneo, quindi mi dispiace. E niente, le volevo fare solo una domanda su Krasic. Secondo lei è arrivato il momento di cederlo, di dargli un'altra possibilità? Ma in questo momento andava male con Conte. Guardi Claudio, in questo momento è un po' è abbastanza improponibile Krasic. È un giocatore che a me è piaciuto molto nell'approccio con il nostro campionato l'anno scorso, nella prima parte della stagione. Non lo conoscevamo bene, mi sembrava qualcosa di interessante, ha avuto un'involuzione forte, nella seconda parte della scorsa stagione dicevo vabbè, reduce al campionato russo, ha fatto il triplo giro tra tutti i campionati, non si è fermato mai. Quest'anno l'involuzione mi sembra particolarmente preoccupante, soprattutto in una squadra che dovrebbe puntare molto sul gioco esterno. Quindi non lo so, in questo momento è difficile proporlo. Poi cederlo mi sembra pure molto difficile, perché è un giocatore che a costo di, che vorrebbe dire fare una minusvalenza pazzesca se la Juventus dovesse cederlo in questo momento, perché l'ha pagato un sacco di soldi. Dunque ci fermiamo, poi torniamo alle 8:30, dalle 8:30 alle 9 per raccontarvi la giornata di basket. Per il momento grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. A più tardi.